Allora, grazie a tutte e a tutti e grazie tantissime a Strike per l'ospitalità, perché Strike noi non l'abbiamo scelto a caso, non è che abbiamo scelto Strike per caso, l'abbiamo scelto per dei motivi precisi. Prima di tutto per il percorso politico che ha fatto finora. E poi perché in questo momento è anche sotto attacco, è in un contesto di forte gentrificazione e quindi è circondato da tutta una serie di situazioni quanto mai pericolose in quella che è adesso una forsennata corsa a Roma al modificare in senso di espulsione di tutto quello che è sgradito dal centro e da tutto il primo anello periferico, di espulsione di tutta una serie di realtà e anche degli stessi abitanti. Quindi il fatto di aver scelto Strike ha un motivo particolare e quindi lo ringraziamo e lo supportiamo prima di tutto. Allora, l'iniziativa l'abbiamo intitolata Femminismo Smart City, perché da diverso tempo ci occupiamo, noi come coordinamento femminista e lesbica, insieme all'Assemblea Romana contro il Green Pass, al No Green Pass a Roma, di Smart City e della città dei 15 minuti, delle modificazioni urbane, non soltanto nel contesto specifico di Roma, ma cercando le ragioni per cui questo sta succedendo. Diciamo che quando è in atto una trasformazione dalle fondamenta della società e sotto tanti punti di vista, sotto tantissimi punti di vista, solo che ogni volta in un ambito succede qualcosa, questa viene affrontata in maniera settoriale, si comincia a discutere, non so, si parla della ZTL, allora si comincia a discutere dell'inquinamento, del non inquinamento, fino lì, fino là, fino su, fino giù, oppure si parla della turistizzazione della città, allora sì, gli affitti brevi sì, gli affitti brevi no, ho assistito addirittura a assemblee in piazza tipo Trastevere che praticamente finivano solo e soltanto sull'ordine pubblico, no? Sul decoro urbano. Quindi tutte queste cose vengono affrontate in maniera diversa ma settoriale, e questo non fa capire che invece c'è un progetto globale del sistema di potere che mira a trasformare dalle fondamenta il nostro modo di vivere. E questo è importantissimo, cioè tutte le esperienze di contrasto, di contrarietà, di lotta nei vari ambiti, nei vari settori dovrebbero essere portate a sintesi nella comprensione di quello che sta succedendo. Allora, tant'è vero che quando abbiamo fatto le ultime iniziative sulla Smart City e sulla città dei 15 minuti, abbiamo intitolate Nostro lo spazio, nostro il tempo, giù le mani dalle nostre vite, perché la riteniamo un'aggressione a tutta la vita, a tutto tondo. E ci ha colpito in maniera particolare un'affermazione che uno stralcio del manifesto della città dei 15 minuti, che è di Carlos Moreno, che sarebbe l'architetto che che ha approfondito e ha creato questo tipo di configurazione, che ci ha aperto tanti scenari. Bisogna ricordarsi anche che tutto sommato non dobbiamo dimenticare che il capitalismo studia tantissimo ai think tank, alle associazioni, ai gruppi di studio, università, teorici, per cui niente di quello che succede è casuale, no? E soprattutto poi ci dice anche le cose, non è vero che non le dice, ma bisogna fermarle, no? Cioè leggerle e fermarle. Allora, per esempio, Carlos Moreno dice: è tempo di passare dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione della vita urbana. E già questo è pericolosissimo. Ciò significa trasformare lo spazio della città, sinora monofunzionale con le sue diverse aree specializzate, in una realtà policentrica basata su quattro componenti principali: vicinanza, diversità, densità e ubiquità, per ottenere a breve distanza le sei funzioni sociali urbane essenziali, cioè vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere. Cioè loro vogliono mettere le mani sul vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere. È un'affermazione molto, molto forte, no? Ed è per questo che noi abbiamo risposto: giù le mani dalla nostra vita, nostro lo spazio, nostro il tempo. Dopodiché, leggendo l'ultimo libro di Silvia Federici, abbiamo trovato dei passaggi in cui Silvia dice che tutte le volte che il capitalismo ha voluto modificare dalle fondamenta la società, ha messo le mani sullo spazio e sul tempo dei subalterni, a cominciare dalla chiusura delle terre comuni all'inizio, nella prima fase del capitalismo, poi passando per la definizione dei tempi di lavoro, dei tempi di studio, perfino dei tempi del tempo, cioè perfino il tempo libero è codificato, per cui noi viviamo in una realtà fatta di uno spazio che ci è stato costruito, di un tempo che ci è stato delimitato e di un tipo di impostazione anche del tempo libero e comunque della felicità che ci è stata costruita. Adesso che cosa sta succedendo? Che loro stanno mettendo le mani, stanno cercando di nuovo di modificare gli spazi, i tempi e i modi del nostro vivere, perché gli serve per avere una produttività, detta fra virgolette, diversa. Cioè loro sono entrati in un contesto in cui, attraverso la digitalizzazione imperante, le mani sui corpi, la possibilità di modificare perfino non solo gli esseri viventi, ma anche l'agricoltura, ma anche l'ambiente, attraverso sempre scuse nobilissime e magnifici intenti in cui poi loro si presentano come l'impero del bene, no? Non solo sul fronte interno, ma anche sul fronte esterno. Noi esportiamo democrazia, noi esportiamo lungimiranza politica, noi siamo il riferimento ottimale sia per le guerre, sia per la guerra, sia per la pace, sia per la democrazia che per la vita della gente, sia per il lavoro. L'Occidente ha questo ruolo. Allora, Silvia nel suo libro ha sviscerato, a parte il fatto che lo sta facendo da diversi anni, nel senso che lei ha cominciato col Grande Calibano, poi il Calibano e la strega, non so se voi lo conoscete, molti di voi lo conosceranno, in cui ha analizzato il passaggio dal momento precapitalista alla società capitalista in maniera veramente serrata, e quindi questa capacità del capitale di usare il nostro spazio e il nostro tempo ci dovrebbe condurre a riflettere e a opporci a come lo sta cercando di modificare adesso, a quello che sta facendo adesso. Passo la parola a Margherita, perché noi come femministe in particolare è tanto tempo che stiamo studiando e stiamo riflettendo su come il capitalismo ha messo le mani sulla nostra società. Ciao a tutte e tutti e saluto anche Silvia che nel frattempo si è collegata, ma non sono ancora le 9, però non so se si vuole già collegare. Ciao, ci vedi, sì. Ci senti? Sì, vogliamo vedere, noi la sentiamo? No, sì. Perché ero muta. Perfetto. Questa è sempre la mia ansia, Silvia, non ti preoccupare, è andata così stasera. Allora, io dico soltanto due parole perché, visto che sei già qua, non ci dilunghiamo, però un po' per approfondire la questione del corpo e poi lasciarti la parola, perché quando durante all'inizio, diciamo, della pandemia, quando in quel periodo tremendo e infausto abbiamo cominciato a vederci come assemblea No Green Pass, quella che poi è diventata assemblea No Green Pass, il nostro percorso femminista già da anni aveva incominciato a ragionare proprio su questo slittamento, questa evoluzione che non è una trasformazione nel senso che sono nuove forme di sfruttamento non capitalistico naturalmente, ma questa estensione delle forme di sfruttamento anche proprie del patriarcato a tutta la società a partire dai luoghi di lavoro. Cioè stavamo facendo un percorso rispetto al, diciamo, su tutti i meccanismi che nei luoghi di lavoro vengono utilizzati, sono stati utilizzati nelle ultime ristrutturazioni per trasformare, per diciamo estendere anche al corpo non femminile della società alcuni meccanismi di espropriazione propri invece della cultura e del sistema economico patriarcale. In questo senso ragionavamo sulla meritocrazia, sulla delazione, sulla precarietà come meccanismi intermittenti di riconoscimento, per cui tu brami il riconoscimento del posto di lavoro, del datore di lavoro o del padrone in generale, perché ti viene a mancare, così come il riconoscimento della donna all'interno della famiglia o della società deriva dal fatto che appunto viene valorizzata dallo sguardo maschile, ma soprattutto tutta una serie di dispositivi che stimolano la partecipazione degli oppressi al sistema di oppressione, così come viene sempre stata stimolata la partecipazione attiva delle donne al loro sistema di sfruttamento. Tutti i dispositivi che poi anche con l'assemblea abbiamo analizzato, perché addirittura in America li teorizzano, e questo Silvia forse ce lo potrà dire ancora meglio, sotto l'etichetta del cosiddetto paternalismo libertario, cioè un modo di governare, diciamo, del nuovo millennio in cui non c'è un obbligo esplicito, non ci sono sanzioni apertamente repressivi, almeno all'inizio, ma il terreno dell'assoggettamento e dello sfruttamento viene preparato da una serie di consigli, dalla creazione di un contesto obbligante. Quindi è il contesto intorno a te che ti spinge a dover partecipare in un modo o nell'altro, perché la sanzione è direttamente l'esclusione da da molte attività della vita. Chiaramente questi dispositivi, che non sono appunto apertamente repressivi, c'è il carcere se violi la norma, ma sono conformativi, che quindi si fondano anche sulla premialità, sono stati apertamente messi a sistema durante il Covid, per cui non era obbligatorio, almeno non per tutte le fasce di popolazione, farsi il vaccino, ma non avere il Green Pass che derivava dal farsi il vaccino era chiaramente una condizione per svolgere qualsiasi attività, e anzi c'era anche una sanzione morale molto forte, che abbiamo tutti quelli che hanno fatto una certa scelta hanno vissuto sulla propria pelle. Quindi questo miscuglio di norme premiali e norme repressive è stato quello che durante il Covid, quello su cui durante il Covid l'assemblea anche No Green Pass si è concentrata, perché appunto meccanismi premiali, primi fra tutti sono i meccanismi reputazionali. Io sono tornata da poco dalla Cina ed è stato molto interessante come mi hanno messo al corrente di questa riforma del codice della strada che c'è stata qualche anno fa, per cui essere trovati alla guida in stato di ebbrezza adesso ha delle sanzioni molto più elevate, che consistono anche nel 15 giorni di galera, anche soltanto per uno sforamento lieve. Anche io ho detto: ah, quindi siete passati a una repressione penale? Mi hanno risposto: penale? No, non è penale, fai 15 giorni di galera e basta. Sì, ma quei 15 giorni di galera implicano il fatto che tu non vada al lavoro per 15 giorni, quindi il datore di lavoro ti licenzia, e quindi questo licenziamento andrà sul tuo credito sociale, sulla tua patente, diciamo, del buon cittadino, e quindi nessuno poi mai ti riassumerà. Quindi non è assolutamente una sanzione criminale, anche se c'è la detenzione, questo è il loro sistema, va bene. Ma il grosso, diciamo, del problema si crea perché è la tua reputazione. Quindi il credito sociale lì è già attivo, e il periodo pandemico è stato per noi un periodo di di integrarlo, insomma di cominciare ad utilizzarlo anche da noi. E queste forme, diciamo, premiali di appunto convivono con forme repressive, così come il futuro che ci prospettano con le smart cities, che sono la messa a sistema di questi meccanismi conformativi, ergonomici, che appunto lavorano sul contesto e non sul singolo obbligo. In questo nuovo design, diciamo, non c'è la smart cities, che viene presentata come una soluzione idilliaca in cui tutti i servizi sociali verranno resi in modo efficiente, immediato, pulito, energeticamente sostenibile, eccetera, in realtà convivono con delle forme di sfruttamento integrale dei corpi, per cui abbiamo da una parte dei balzi nel futuro grandissimi e dall'altra invece anche un ritorno di forme di lavoro estese anche al nostro tempo libero, che sono di natura, cioè di natura, che diciamo rammentano le forme ottocentesche di messa integrale al nostro al lavoro dei nostri corpi. Ad esempio la surrogazione di maternità, la gravidanza surrogata, senza entrare, diciamo, nel tema del è giusto, è sbagliato, è una libera scelta, è una costrizione economica, eccetera, eccetera, si fonda comunque su dei contratti a risoluzione integrale. La donna che mette il proprio utero a disposizione non può tirarsi indietro da quell'obbligazione. Sono tipologie contrattuali che non si vedevano più da moltissimi anni. Quindi il contesto della smart cities, appunto come fa anche Silvia nel suo libro, si dovrebbe leggere anche a partire da quello che fa ai nostri corpi, oltre che ai nostri contesti urbani, corpi che, come dice lei giustamente nel libro, sono sempre più esausti, sempre più tesi, sempre più indebitati, sempre più sfruttati e sempre più, aggiungiamo, atomizzati, nel senso che sono direttamente collegati a queste macro infrastrutture proprietarie, per cui non c'è neanche la mediazione, diciamo, dei corpi intermedi. Dentro a questo baratro, più corriamo verso il burrone, più, come ha detto un compagno di Trento tempo fa, spuntano fuori gli esperti dei burroni, quindi esperti a cui noi dovremmo delegare la nostra tutela all'interno di questa transizione, di questa trasformazione degli spazi e dei corpi. Io, studiando giurisprudenza e stando in accademia su questo, sento continuamente i giuristi che dicono: il nostro compito non è quello di mettere in discussione gli utilizzi dell'intelligenza artificiale o di limitarne i campi di applicazione. Il nostro compito da giuristi è quello di facilitare, diciamo, l'ingresso dell'intelligenza artificiale nei nostri vissuti e, diciamo, mettere delle pezze in ordine a come distribuire i danni che questi creano. Siamo dentro la logica dell'indennizzo, nel senso che nessuno ci sta, nessuno ha intenzione di arrestare queste trasformazioni, semmai il massimo sarà dividere alcune bricioline, ma comunque molto poche, per indennizzarci delle nuove schiavitù che ci si parano davanti. Ad esempio, chiudo su questo, a proposito di una richiesta continua di delega agli esperti e di stimolazione di questo senso di voler star dentro e farsi bastare l'indennizzo invece che trasformare le proprie condizioni di vita, che nel nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale dell'Unione Europea, che alla base ha questo intento di... L'Unione Europea adesso si trova tra l'America, che lascia tutto il potere alle grandi multinazionali, e la Cina invece, che utilizza quella tecnologia, diciamo, in maniera statalistica accentrata, si trova a voler fare il baluardo della democrazia. C'è questo nuovo regolamento sull'uso e la regolamentazione dell'intelligenza artificiale che divide le varie attività che si possono fare sulla rete attraverso le applicazioni smart in fasce di rischio. Una cosa che ho trovato molto indicativa è che il gaming di tutte le sue in tutte le sue manifestazioni, che sappiamo essere una droga molto potente ultimamente, che incatena un sacco di giovani, soprattutto in Asia, alla scrivania, e comporta depressioni da dispositivo, eccetera, eccetera, è considerata un'attività a rischio minimo. Quindi il regime giuridico dei giochi è assolutamente liberalizzato, si può fare un po' come... Allora, è un rischio minimo, anche perché per loro il fatto che una popolazione a un certo punto si ammali interamente di depressione non è una cosa negativa. Al massimo sono pronti a coprire i costi della medicalizzazione, e infatti stanno andando avanti anche sulla strada della psichiatrizzazione. Quello che ci stanno dicendo è: ti do il PNRR, dà dei soldi per metterci gli psicologi agli angoli delle strade, mentre tutto intorno, il nostro contesto urbano di lavoro e non solo, va verso questi orizzonti di sfruttamento integrale, prestazioni gratuite di lavoro e appunto messa al lavoro dei corpi, che è proprio quella del patriarcato. Cioè la donna sotto il patriarcato non è messa al lavoro per delle porzioni del suo tempo, per delle mansioni specifiche, è messa integralmente al lavoro come corpo. Questo meccanismo si sta estendendo e si è già esteso a tutto il corpo sociale. Ti passiamo la parola. Silvia. Buonasera, saluti a tutte e tutti. Tante cose, no? È difficile sapere da dove cominciare, no? Allora, la Smart City. Io, certo, condivido tutte le preoccupazioni. C'è poi tutta un'analisi da fare sul concetto di smart. Abbiamo le smart bomb, le smart cell phone, smart city. Smart, dobbiamo sempre metterci in guardia quando sentiamo la parola smart. Perché dobbiamo sentire, quando appare la parola smart, sentiamo puzza di frode. Questo è importante. La smart city è parte di questa frode, no? E ci proietta un mondo tutto organizzato, dove tutti i nostri bisogni saranno... In realtà, la realtà è completamente diversa. Allora, io vorrei raccontare un po' di come abbiamo vissuto noi l'idea della smart city, non solo, no, dal tempo del Covid, ma già dagli anni 80 e 90. E poi a riflettere su quali sono oggi le forze, le preoccupazioni a cui il capitalismo risponde in questo suo avanzare nella città, nelle aree urbane, come anche nelle aree rurali, no? A quali preoccupazioni risponde, e quindi qual è la direzione e quali sono i meccanismi, in realtà, al di là dell'ideologia della smart city, quali sono i meccanismi disciplinari che veramente sono i più importanti e sui quali dobbiamo organizzare il massimo delle lotte, no? E, bene, prima di tutto la ricostruzione della città, dello spazio urbano. La ricostruzione della città oggi è una tematica molto forte, soprattutto non solo per la tendenza storica del capitalismo, che è appunto di controllare il massimo, no? Gli spazi, i territori, i corpi, no? In modo da poter estrarre il massimo di plusvalore, di sfruttamento, e imporre il massimo. Non solo questo, ma anche perché alcune circostanze storico-politiche molto importanti. Oggi assistiamo a un livello globale processi di urbanizzazione immensi. No, l'espandersi dei rapporti capitalisti sta svuotando le campagne, permette a chi vive nelle campagne di rimanere solamente in funzione di lavoratori salariati, di dipendenti. Cioè la tendenza storica del capitalismo, no, a privarci dei mezzi più importanti per riprodurre la vita, le terre, l'acqua, il pescare, tutta la foresta, eccetera, tutto questo contatto con la natura. Infatti le Nazioni Unite nel 2023 hanno celebrato il fatto che per la prima volta nella storia dell'umanità, lo hanno celebrato, cosa incredibile, no? La maggior parte del mondo vive in aree urbane e la tendenza continua, perché la gente sempre più viene espropriata, viene dislocata, no? L'estendersi dei rapporti capitalisti, soprattutto con le attività estrattiviste, il petrolio, l'estrazione dei minerali, no? L'agrobusiness, eccetera, eccetera, no? C'è un grosso, come si dice, vacuum cleaner, un grosso aspirapolvere che sta svuotando moltissime aree, senza contare, no, tutte le migrazioni dovute ai disastri climatici e al cambio climatico. Quindi c'è un processo molto forte di urbanizzazione che quindi crea ovviamente delle possibilità di lotta in area urbana, crea possibilità di tensioni molto forti, no? E lo vediamo anche con l'immigrazione. Quindi c'è tutta una preoccupazione, no, di controllo sociale molto forte, no? Poi inoltre il degrado della vita economica a tutti i livelli, a livello internazionale, no? Praticamente gran parte dell'investimento nella riproduzione sociale oggi viene decurtato in modo molto massiccio. Questo significa quindi una situazione di esplosività permanente, noi lo vediamo. In questo contesto, no, che già comincia, no, da noi, certo, già verso la fine degli anni Ottanta si poteva vedere questo processo sempre più forte, sempre più intenso, sempre più conflittuale, incominciano queste iniziative di ristrutturazione della città. Di ristrutturare la città in modo di un controllo sistematico, no? Che oggi poi si fa anche con tutte le tecnologie di sorveglianza, ma nel, per esempio negli anni Ottanta in una città come New York, no? O Washington, tutte le grosse metropoli americane, no? Si è attuato con processi a cui noi al tempo abbiamo dato il nome di deconcentrazione spaziale. Cosa voleva dire deconcentrazione spaziale? Voleva dire che, no, piccoli eserciti di controllori, eccetera, si sono scaglionati nei quartieri a studiare in che modo rendere i quartieri più sicuri, no? Per cui si è visto per identificare tutti gli elementi di disturbo in un quartiere, per esempio un campo gioco di bambini che poteva portare bambini da altre aree indesiderabili, oppure dai percorsi degli autobus e i percorsi della metropolitana. No? Per esempio, no? Si è studiato molto qui a New York, a Washington, nelle altre metropoli, i percorsi, no, degli autobus delle metropolitane, a vedere quali comunità nella città collegavano, in modo da discollegare le aree da proteggere, soprattutto le aree ricche, le aree borghesi, eccetera, eccetera, dalle aree proletarie. Quindi tutto uno studio, per esempio, sulle fermate degli autobus, sulle fermate delle metropolitane. C'è stato poi anche, no, un processo di quello che vediamo, la militarizzazione praticamente della città, no? La militarizzazione della città che non solo comincia con la polizia che ormai è addestrata militarmente, no? Nelle grosse città americane la polizia è addestrata militarmente, cioè hanno l'addestramento e il tipo di equipaggiamento che è di dotazione dei militari, tanto è vero che molti vengono addestrati da Israele, vengono addestrati da, no, poliziotti che vengono da Israele. Ma si è tentato poi anche di creare una polizia diffusa attraverso il sistema delle Block Association. Le Block Association erano erano organizzazioni di quartiere che avevano, a cui si è assegnato il compito, in questo caso, in molti casi, alle donne, perché le donne erano in casa tutti i giorni, specialmente alle donne più anziane che erano in casa, gli si è assegnato il compito di spiare, di controllare. A molte hanno dato il walkie-talkie, in modo che se vedevano persone sospette entrare nella strada o nell'edificio, potevano collegarsi letteralmente con la polizia, immediatamente con la polizia. Quindi già questo, alla fine degli anni 80, principio anni 90, un livello di sorveglianza veramente molto molto forte, no? E quindi ha ristrutturato il principio, è stato il principio di una ristrutturazione, no, della città, no, che poi è continuata e continua con tutti i modi di sorveglianza, per esempio di sorveglianza di camere, continuamente le camere che trasmettono alla polizia direttamente ciò che avviene nelle strade, nei negozi. Viviamo veramente in uno stato che, dove la sorveglianza è continua. Poi un altro meccanismo fondamentale per noi è stato il meccanismo dell'incremento degli affitti. So che questo è un problema che sta succedendo a livello mondiale, so in Europa, per esempio in Spagna c'è una grossissima organizzazione contro gli sfratti, no? E soprattutto contro, no, l'appropriazione da parte di grosse corporazioni, no, delle case, dei quartieri, in modo che l'inquilino non ha più a che fare con un padrone individuale, non ha più a che fare con, ma ha a che fare con una grossa corporazione che sempre più possiede gran parte delle case, e questa è la tendenza, gran parte delle case del quartiere. Si racconta qui, e non so fino a che punto sia una leggenda o una realtà, che durante il Covid, quando moltissime persone hanno perso il lavoro ed erano in condizioni veramente molto finanziarie, molto precarie, no? Giravano in questi quartieri, no? Persone con veramente borse piene di dollari, no? Per cui davano 50.000 dollari a persone che erano inquilini, che erano in situazioni di strettezze finanziarie, disposti a vendere la propria casa. C'è stato quindi un avanzo, un assalto, no, alla corporatizzazione del quartiere, in modo che è molto difficile, no, per esempio, costruire una lotta contro il rincaro degli affitti, perché in realtà non si lotta praticamente non con un padrone, ma si lotta contro corporazioni che hanno un grosso potere. Quindi la lotta degli affitti, e qui vediamo il corrispettivo, no? La smart city. Se io guardo New York come smart city, in qualsiasi parte della città, anche nelle aree più eleganti, anzi forse in più, no? Si trova gente senza tetto. Ormai la vita, cioè la presenza dei senza tetto, la presenza di gente sempre più, no, obbligata a vivere in questi rifugi, no, come si dice, shelter, come si dice, ospizi per i poveri, no, che sono veramente grotteschi, perché sono un catasto di letti, tanta gente preferisce anche d'inverno vivere in strada piuttosto che andare in questi luoghi, dove fra l'altro puoi andare solo nella notte, perché alle 8 del mattino ti buttano fuori, anche se nevica e se c'è un gelo di 20 gradi sotto zero. Quindi il discorso della casa, il discorso dei senza tetto, come i senza tetto poi si trasformano in un elemento di disciplina, perché il terrore di rimanere senza tetto, il terrore che ogni momento perdi il posto di lavoro, fai una spesa sbagliata e ti trovi ad essere senza tetto, no? Crea, scusatemi, non sono riuscita a staccare il telefono, lo faccio adesso. Sì. Ok. Sorry about that. Scusatemi. Quindi questo della casa, no? È un elemento disciplinare. Il discorso della Smart City non ci dice, no? Non ci dice quale rapporto avremo, no? Rispetto a tutta la grossa problematica, no? Della casa, no? Quindi questo è un altro terreno molto molto importante. E la digitalizzazione della vita. Questo della digitalizzazione della vita, ecco, come fenomeno di controllo e come fenomeno di esclusione, no? Io credo che sia diventata una delle grosse peste, una peste che per veramente crescente, che ormai qualsiasi transazione, no, siamo obbligati a fare riguardo alla salute, riguardo alle banche, riguardo al lavoro, tutto deve passare attraverso sistemi digitali. Questo per prima cosa crea assolutamente un sistema di esclusione, no? Ristruttura i rapporti sociali in modo sempre sempre più verticale, perché ovviamente esclude tutto un fascio molto largo di persone che non hanno accesso o che non sono capaci di riciclarsi sopra questo tipo di comunicazione, che o non hanno accesso o non sono. Quindi questa, in secondo luogo, naturalmente il discorso della digitalizzazione è anche un discorso di occupazione dei nostri corpi, occupazione dei nostri tempi. Ormai il telefonino, no? Il portatile, no? È diventato una necessità vitale. È diventato una necessità vitale al punto che ormai praticamente ci sono persone, no? Moltissimi che vivono col telefonino in mano, no? Io cammino per le strade, vado nella metropolitana e praticamente ormai i 2/3 della popolazione vivono con il telefonino in mano. E questa è un'occupazione della mente, un'occupazione dei nostri corpi molto molto forte. E senza contare che, no, stiamo apprendendo il fatto che questi telefoni poi possono e si stanno già ormai convertendo in modo molto rapido in forme di spionaggio, cioè ormai si stanno approntando tutta una serie di programmi, con il programma Pegasus. Abbiamo visto recentemente quello che è successo in Lebanon, no? Dove i beeper, dove i telefoni mobili, no? Sono esplosi nelle mani di migliaia di persone perché sono stati programmati. Ma al di là dell'esplosione, al di là del fatto che si possano convertire in arma, c'è un fenomeno di capacità di sorveglianza, no? Quindi io credo che tutto questo è molto importante, perché ci deve veramente fare riflettere, ci deve fare su quali sono oggi, no, nuovi terreni di resistenza, nuovi terreni di lotta. Io, come ho scritto, Elisabetta e Margherita hanno ricordato, no, che con il capitalismo deve trasformare il nostro rapporto con tutto, no? Cambia il senso del tempo, il senso dello spazio, no? Per secoli e secoli il lavoro si è programmato sul ciclo, no, delle stagioni, si è programmato sull'alternarsi del sole e della notte, no? Poi incomincia questo tempo astratto, no? Cambia il senso della natura. La natura non è più questa cosa vivente, magica, creativa, non è più qualche cosa che è in continuità col mondo umano. Ma in realtà la natura è vista ormai come un grosso emporio. La natura è un emporio da saccheggiare a piene mani, no? In cui tutto viene visto in funzione delle sue proprietà commerciali, no? E così via. Il senso della morte, non solo il senso della vita, ma il senso della morte. Oggi la morte non esiste come evento nella comunità, no? Una volta la morte era una cosa molto molto importante, c'era un'idea di come si, un ideale di come si doveva morire, no? E il giorno della morte doveva essere il giorno in cui sistemavamo tutti i nostri conti con gli amici, con la famiglia, con il mondo, no? Eccetera. C'era tutta un'ideologia di come quando una persona moriva, tutta la comunità doveva saperlo, no? La famosa frase: per chi suona la campana. Per chi suona la campana vuol dire che quando sentiamo le campane a morto, sentiamo che qualcosa è successo a ciascuno di noi. Non è successo così in astratto, è successo a ciascuno di noi, che tutta la comunità è ferita quando una persona muore, no? Il carro funebre che passava per le strade con gli ottoni. Oggi la morte è resa inesistente, il corpo si brucia, non esiste, non è una presenza viva. Non scopriamo nel nostro edificio che qualcuno è morto dopo molto tempo, perché in realtà non esistono più, no? La dissoluzione dei rapporti comunitari. Io credo che questo, e quindi anche il discorso dell'intelligenza artificiale, dei telefonini, delle tecnologie, anche in funzione di questo, di questa privatizzazione della vita, no? Di questa nuova forma di incrocia, no? Le tecnologie digitali come una nuova forma di incrocia. Una volta si mettevano, no, all'inizio del capitalismo, si sono, no, cintate le terre comunali, si sono messe dei paletti tutto attorno alle terre comunali per impedire a chi viveva di queste terre, a chi le coltivava, di continuare via. Oggi si stanno cintando i corpi, si stanno cintando le anime, si stanno cintando le psicologie, no? Perché, no? Con tutti questi aggeggi elettronici praticamente si rompe, si riprivatizza la vita, no? È una nuova forma di cercamento. E l'altro grosso terreno, no? Che diciamo sono terreni di battaglia, perché in realtà, no? Quello che è impressionante oggi è che tutte queste aree di organizzazione, che dovrebbero essere aree di organizzazione della nostra riproduzione sociale, stanno diventando in realtà, no, aree non di riproduzione, ma stanno aree di combattimento, aree di disciplinamento, aree di esproprio, no? Quindi la riproduzione è una riproduzione al ribasso. E un'altra area è tutta l'area della medicina. Io credo che qui l'esempio del Covid è stato un grande, grande, no? L'area della medicina. Ovviamente la medicina oggi, no, gioca un ruolo importantissimo, non nuovo. Io credo che anche qui il movimento femminista non ha fatto abbastanza per studiare, no, per ricordare, no, il ruolo che la medicina ha avuto nel disciplinamento soprattutto delle donne, e come poi il disciplinamento delle persone di colore con le sterilizzazioni, no? Ma pensate per esempio alle lobotomie, no? Io sto ancora aspettando, avrei voluto farlo, ma per mancanza di tutte le migliaia di donne che sono state negli anni 50 in Europa e negli Stati Uniti lobotomizzate in genere in risposta a un rifiuto del lavoro domestico, a un rifiuto di assoggettamento a rapporti familiari indesiderati. Smettevano di mangiare, smettevano di pettinarsi, smettevano di cucinare, e il signore aveva la possibilità di portarli all'ospedale e farli lobotomizzare, dichiarando poi che erano diventate casalinghe modello. E questo, si è detto, i dottori lo hanno proclamato apertamente, valeva soprattutto per le donne, non si poteva fare agli uomini perché gli uomini maneggiavano utensili nelle fabbriche costosi. Non si poteva permettere a un uomo senza cervello di usare, di lavorare in fabbrica perché poteva distruggere dei macchinari. Invece le donne, visto che il lavoro domestico era considerato un lavoro da nulla, potevano essere lobotomizzate. Oggi ci sono nuove forme di lobotomia. Tutto l'apparato della medicina è oggi un apparato, in parte che pare un apparato di guerra. Per esempio l'uso dei psicofarmaci, non nuovo, ma sempre più esteso, e per esempio qui negli Stati Uniti, non so, in Italia, in Europa, sempre più indirizzato nei confronti dei bambini. Oggi assistiamo alla realtà di milioni di bambini che dai 4 anni ai 10-12 sono già completamente imbottiti di pillole antidepressive, pillole contro la iperattività e pillole contro tutta una serie di malesseri mentali, cosa che si deve fare ovviamente riflettere su cos'è questa società, no? Il fatto che sembra, si dichiara che un numero crescente di infanti, di bambini, no, oggi sono affetti da malattia mentale, quindi già questo è un giudizio sulla società, in che tipo di società viviamo. No? Il fatto che tutti questi bambini vengono dichiarati, in realtà anche qui gioca tutto un processo di disciplinamento tremendo, perché le esigenze frustrate dei bambini, esigenze frustrate perché i genitori non hanno risorse, i genitori non hanno tempo, non c'è tempo per i bambini in questa società, tutte queste, no? La ribellione del bambino che è frustrato nei suoi desideri di vita, nelle sue necessità fondamentali di vita, viene naturalmente catalogato come una malattia mentale e punito in questo modo. Qui vorrei fare una piccola digressione dicendo che una cosa a cui stiamo assistendo e che è collegata a quello che sto dicendo adesso, no? In questo ritorno di caccia alle streghe, no, che stiamo osservando da anni in parte dell'Africa, India, parte dell'Asia, c'è un ritorno alla caccia alle streghe con migliaia di donne bruciate, seviziate, eccetera. Sempre più la persecuzione si rivolge verso l'infanzia, perché appunto abbiamo un'infanzia sempre più frustrata, sempre più in condizioni miserevoli, e quindi ovviamente risponde con forme di indisciplina rispetto a quella che dovrebbe essere la norma sociale. No? La medicina quindi come terreno, un altro terreno. No? Pare che e a Israele ci sia in questo momento tutto uno studio di tecnologie per cui tante delle cure mediche che oggi vengono svolte negli ospedali, nelle cliniche, verrà ributtata invece verso la casa. Negli Stati Uniti già stiamo osservando parte di questo fenomeno. Le compagnie che producono tecnologie, no? Per gli ospedali, come per esempio per fare la dialisi, adesso le producono delle mini tecnologie, in modo che la dialisi in futuro si può fare in cucina o nella camera da letto. Quindi c'è tutto un progetto di ributtamento, no? Di riserva sempre crescente dell'ospedale, della clinica, dello spazio dell'ospedale, della clinica, per i privilegiati, no? Invece per il grosso pubblico, in parte la cura si ristruttura nella casa e possiamo dire probabilmente sulle spalle delle donne, e in parte con le videovisite che già oggi da noi sono imperanti. Metà delle visite si fanno ormai col video. Anche questa è un'altra innovazione, no? Che veramente sconvolge molto il classico rapporto, no, di cura, perché il classico rapporto di cura passava attraverso un contatto reale con il corpo, passava con un contatto reale di due persone. Invece ormai questo contatto viene sempre più organizzato in forma rarefatta, no? Ecco, io penso che se guardiamo a tutti questi diversi terreni, vediamo che cos'è in realtà la smart city, no? Ah, Volevo aggiungere qua che il processo di riduzione, eliminazione della clinica da noi è già molto avanzato. Pensate che nei 20 anni no, precedenti all'esplosione del Covid, nello stato di New York hanno chiuso 40 ospedali, di cui 19 solo a New York. Perché? Perché non erano abbastanza produttivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che non riuscivano a riempire i letti tutte le notti. E quindi, no, in un processo che ormai è diventato molto classico, hanno continuato a ridurre gli investimenti, l'ospedale si degrada, le cure sono sempre più deteriori, la gente dice, ah, no, quell'ospedale non vado, vado a morire, e l'ospedale viene chiuso, no? 40 ospedali sono stati chiusi. Viene il Covid e si parla della grande crisi, si parla del grande disastro, il Covid, malattie, eccetera, eccetera. In realtà moltissima gente è morta attaccata ai loro respiratori per questo disastro umano, no? Questi sono omicidi della società capitalista, questi sono omicidi della società capitalista. Quindi io credo, quando parliamo della Smart City, no, parliamo appunto di questo progetto, no, di appropriazione completa dei nostri spazi, dei nostri cervelli, dei nostri, no? In realtà già sta passando. Però è importante vedere che sta passando in forma, e qui veramente è uno dei grossi problemi che incontriamo, in forma diversificata, in modo che non tutti soffriamo le conseguenze, no, dell'immiseramento progressivo della comunità. E questa diversificazione rappresenta veramente un ostacolo rispetto a tutto un congiunto di lotte che invece è necessario fare, no? Lotte che in un certo senso devono reintegrare nello spazio urbano le lotte per la terra, no? Che si stanno conducendo in molti, molti paesi, no? Di fronte a questa nuova aggressione capitalista, no, da parte che tende a commercializzare il mondo, che tende a commercializzare tutte le risorse naturali e a fare di noi delle specie di, no, praticamente soggetti completamente manipolati. Quindi la lotta per la terra che si sta in questo momento svolgendo in molto molto sanguinolento, se vuoi, in tante parti del mondo, per reclamare terre, difenderle, reclamarle, impedire la contaminazione delle acque, impedire il disbosco, la deforestazione, no? Impedire che campi arabili siano trasformati in campi per la soia, no? Che sta costando la vita di molte donne, perché le donne sono in prima linea di lottare, no? contro l'esproprio e per il reclamo. Io credo che queste lotte devono essere le lotte che si portano avanti in spazio urbano, controllare sempre di più il territorio, no? Fare sì che nel territorio urbano si recuperino spazi, terre, in modo da creare anche forme più autonome, no? Di riproduzione, no? I giardini urbani sono stati e sono un buon esempio, perché come sappiamo tanta della violenza del mondo, delle guerre, come vediamo in Palestina e in altri luoghi, hanno a che fare anche con una divisione internazionale delle risorse, del lavoro, no? Per cui chi produce non consuma, per cui, no, quando andiamo in un supermercato, le frutte, no? I telefonini, i computer, i vestiti, eccetera, eccetera, no? Provengono da aree in cui sono prodotti in modo quasi schiavistico. E quindi recuperare anche, No? Il terreno significa recuperare forme autonome di riproduzione in modo da non continuare da essere complici involontari, di essere complici involontari di queste forme di dispossessione il cui limite è lo sterminio. Ecco, io mi fermo qui perché già ho detto varie cose, vorrei sentire i vostri commenti. Grazie. Grazie Silvia. Io vorrei riflettere su diciamo, alcuni punti della retorica che sta dietro, la retorica mainstream che sta dietro all'ideologia della smart city, dell'ultramodernismo urbanistico. Da una parte il recupero da parte del sistema capitalista del catastrofismo ambientalista, indubbiamente la devastazione ambientale che avanza e il metodo di recupero del sistema che gioca tutte le carte sulle soluzioni tecnologiche, la cosiddetta green economy, lo sviluppo sostenibile. Sono questi insomma un po' gli stereotipi con i quali, oltre a quello della sicurezza, in particolare quello delle donne, poi è deve essere garantita la sicurezza delle donne la sera, l'uscita. Insomma, sono un po' questi specchietti per le allodole, molto spesso sulla quale si basa la retorica del sistema, e che gioca tutta diciamo, la sua pervasività poi un po' sul comfort che viene fornito, un po' sulla questa ideologia di sicurezza, un po' sull'allarmismo, sull'emergenzialismo. Noi con l'Assemblea contro il Green Pass abbiamo diciamo, posto molto l'attenzione sulla dinamica dell'emergenzialismo come metodologia di persuasione del sistema. E quindi le soluzioni tecnologiche, questo sistema multisfaccettato tecnologico che in qualche modo sicuramente si pone come intermediario rispetto al rapporto dell'uomo con i processi naturali e della donna con i processi naturali, con le relazioni ecologiche. Ecco, questi sistemi tecnologici hanno dei loro, come dire, una ipercomplessità che fa sì che ci siano anche degli automatismi e una sorta di quasi di indipendenza e di autonomia dei sistemi tecnologici rispetto al sociale e al politico. E questo lo possiamo forse anche osservare con il fatto che tutte queste grosse innovazioni che ci vengono vendute sono abbastanza spinte in modo trasversale sia da destra che da sinistra, con un accento più da una parte piuttosto che dall'altra, però insomma questo sistema di tecnologie convergenti, per cui abbiamo citato la digitalizzazione, ma anche tutto l'apparato biotecnologico, sia medicale che agricolo, alimentare, che l'intervento sui corpi, ma anche tutta la superfettazione degli studi comportamentali e delle neuroscienze psicocomportamentali che stanno dietro all'analisi delle reti sociali, la convergenza con l'intelligenza artificiale, la robotica, la sensoristica, piuttosto che tutte le applicazioni dual use civile e militare. Ecco, assistiamo a questa sorta di convergenza di questo sistema tecnologico sempre più gigantesco, e è una non, sicuramente c'è dietro l'ideologia dell'efficienza tecnica, dell'ottimizzazione, del profitto e del controllo della sorveglianza, che hanno una matrice sicuramente sociale, politica, capitalista, di una fascia ben precisa della popolazione è molto ridotta, che punta al dominio e a mantenere le posizioni di potere. Però questo sistema in qualche modo va un po' avanti anche da sé per inerzia, per una consunzione estrattivista di tutte le risorse possibili per ottimizzare sempre di più possibile questo sistema. Fino a che non arriverà, cioè i limiti, oramai comunque i limiti naturali, i limiti ecologici sono sono prossimi, se non anche superati. Si parla di space economy, di andare a prendere le risorse altrove nello spazio, ci sono deliri di transumanesimo per cui si pensa che possa attuarsi questa vagheggiata singolarità ultra tecnologica, ibridazione uomo-macchina, insomma i deliri più allucinanti. Quindi sì, volevo porti, diciamo, da una parte il tema dell'autonomia della tecnica e dall'altro quello della trasversalità politica di queste innovazioni tecnologiche che ci ricadono addosso sui corpi. Mi puoi spiegare un pochino più concretamente cosa la questione, la tua domanda? Dammi un pochino più di esplicazione. Sulle tecnologie convergenti, diciamo, un po' l'ho accennato, no? No, la domanda che mi stai ponendo, dimmi quella la domanda. Ma il tuo punto di vista, diciamo, tu ritieni che il sistema tecnologico, i sistemi tecnologici convergenti abbiano una loro autonomia in qualche modo rispetto all'ambito del sociale e del politico? No, non hanno autonomia dal politico, io non ci credo che abbiano autonomia dal politico, no, assolutamente no, dipendono, assolutamente no. Biden adesso, non so, adesso è appena andato in Mozambico, non hanno autonomia, perché per costruire, ci dimentichiamo molto spesso, quando parliamo dell'uso di questi strumenti, ci dimentichiamo che prima di essere usati devono essere prodotti. E ci dimentichiamo cosa vuol dire produrre questa tecnologia. Produrre questa tecnologia significa tutta una rete di rapporti, nuovi rapporti coloniali, no? Le cui conseguenze vediamo nel Congo, nel Sudan, in gran parte dell'America Latina, no? Che sono appunto i rapporti di cui parlo. Campagne di terrore per espropriare la gente, far uscire la gente dalle proprie aree, terre ancestrali per poter convertire i loro territori in luoghi di estrazione. Quindi c'è tutto un investimento molto grosso, per cui non si può parlare di autonomia, perché questi investimenti molto grossi che riguardano territori, che riguardano paesi, richiedono tutta un'orchestrazione politica. Quindi la tecnologia non cresce su se stessa, cresce in risposta a tutto un discorso politico, a tutta una serie di programmazioni politiche. Ecco, io non ci credo all'autonomia della tecnologia, no. La trasversalità, sul discorso della trasversalità politica da destra a sinistra, invece... La trasversalità politica per me è molto, molto chiara, la viviamo adesso nei confronti della guerra in Palestina, per esempio, ma non solo della guerra in Palestina, no? Tutto questo processo, pensiamo ad Obama. Obama, adesso il signor Trump ci minaccia con il maggior programma di deportazione di migranti nella storia degli Stati Uniti. Fino adesso però la persona, il presidente che ha deportato più migranti è stato Obama. La distruzione della Libia, eccetera, eccetera. Quindi il colpo in Honduras, completamente appoggiato dall'amministrazione Clinton e Obama. No, non vedo, rispetto alle grosse vie maestre dell'espansione dei rapporti capitalisti, non vedo una differenza. Non vedo una differenza nei confronti della militarizzazione della vita, nei confronti del nuovo rilancio dell'imperialismo, della ricolonizzazione. No, non vedo questa differenza. Ci sono differenze, no? La politica, questo femminismo del centro, quello che si chiama il centro, no, ormai non si parla più di sinistra parlamentare, ma si parla di centro, no? questa specie di abbraccio di un femminismo liberale, poi neoliberale, un femminismo che significa, no, emancipazione attraverso il lavoro, che poi sono lavori miserabili, precari, mal pagati, tanto mal pagati che la maggior parte delle donne negli Stati Uniti che hanno un lavoro fuori casa è indebitata fino al collo, perché non riescono a mantenersi con il lavoro salariato, no? Quindi no, sulle grosse grandi linee non vedo la differenza. E credo che per questo anche dalle elezioni degli Stati Uniti ha vinto Trump, non ha vinto perché milioni di persone non sono andate a votare, specialmente dopo la situazione in Palestina, dopo il rifiuto sistematico di Biden, di Kamala Harris, di porre fine all'esterminio del popolo palestinese. Sì, ciao a tutti e a tutti, volevo giusto stimolarvi qualche riflessione sul rapporto, appunto, qui dalla Palestina, sul rapporto, diciamo, fra smart cities e guerra, e come, in realtà, come già hai accennato un pochino parlando di militarizzazione delle città tu, e ovviamente, diciamo, parlando in particolare della Palestina, ma chiaramente la cosa è applicabile su qualunque scenario di conflitto, bisogna andare a aprire, c'è qualcuno fuori, scusate. Noi un po' di tempo fa abbiamo fatto un'iniziativa sulle smart cities, portando come esempio in particolare la città di Hebron, ma ovviamente che è una città, diciamo, all'avanguardia, era ed è ancora durante questo massacro che sta in recenza, successo il 7 ottobre, una città molto all'avanguardia, diciamo, Israele in generale come sistema, un sistema molto all'avanguardia per quanto riguarda la sorveglianza, lo sviluppo di tecnologie militari e di sorveglianza, e ovviamente lì sono funzionali al mantenimento della 70-80-nazionale apartheid, diciamo. Però chiaramente adesso che è stato anche funzionale, diciamo, questo sviluppo e questa sorveglianza tecnologica, chiaramente a tutte le operazioni militari che si sono succedute negli anni e in particolare soprattutto alle ultime, diciamo, scudo difensivo, ma in particolare a questa che stiamo, a questo massacro a cui stiamo assistendo, a questo genocidio a cui stiamo assistendo dal 7 ottobre in poi. E diciamo, noi abbiamo fatto questa iniziativa in cui abbiamo presentato un documentario nella città sulla città di Hebron, in cui faceva vedere tutte le tecnologie che gli israeliani applicavano in quel contesto. Ci sono varie applicazioni, quindi si va da un livello tecnologico più basso, quindi il posto di blocco semplice con chiamata con i classici documenti, diciamo, cartacei, e la chiamata alla war room, che comunque anche in tempo di pace era chiamata war room, quindi la chiamata all'esercito per far avere l'ok se quel palestinese poteva passare al checkpoint, veniva fermato, controllato o addirittura arrestato. E da questo livello, diciamo, più basso di tecnologia si è passati a livelli più sofisticati, per ottenere ovviamente lo stesso risultato con minore sforzo e maggiori risultati in realtà. E in particolare ad Hebron ci sono due applicazioni che vengono installate sui telefoni dei militari e dei coloni. Una per i militari dei posti di blocco, appunto, in cui praticamente, avendo digitalizzato tutte le informazioni sui palestinesi, c'è un sistema, un'applicazione, appunto, che si installano i soldati militari sui telefoni, che sostanzialmente, inserendo i dati del palestinese senza controllo della war room, ti dice direttamente l'applicazione sul telefonino se questa persona può passare, deve essere controllata meglio, arrestata, eccetera eccetera. Questo anche in ambito lavorativo, perché chiaramente la parte è anche economica, c'è anche questa prima di cui parlavo per i militari, si chiama Blue Wolf. C'è anche White Wolf, che riguarda invece i coloni, i datori, diciamo, i padroni israeliani, che possono in questo modo, diciamo, controllare i curricula dei palestinesi e valutare se questi sono pericolosi, se possono lavorare o meno. E l'ultimo sviluppo tecnologico di sorveglianza in quel contesto lì, ma poi ci sono tanti altre città che usano anche Gerusalemme Est per il checkpoint della porta di Damasco, diciamo, in particolare quello che porta alla spianata delle moschee, che vengono utilizzati anche in altri contesti, e c'è ad Hebron in particolare c'è un sistema Red Wolf che si chiama, che è sostanzialmente di riconoscimento facciale, ed è anche questo anche questo funziona, diciamo, attraverso una raccolta dati chiaramente estesa, e ha un collegamento fra diverse tecnologie, quindi tecnologie ambientali, di intercettazione, eccetera. E sia questo che anche il sistema che sta venendo utilizzato per sterminare i palestinesi oggettivamente, funzionano tramite l'intelligenza artificiale, in particolare quello dei bombardamenti del sistema Apsora, che ovviamente negli anni, da quando è stato sviluppato nel 2020, a seconda delle esigenze politiche, quindi riprendendo il discorso delle tecnologie che non reprimono, non uccidono, non sfruttano da sole senza un'indicazione umana, questa intelligenza artificiale, che è lo strumento, poi viene settata a seconda dell'esigenza che si ha nel momento. Adesso nell'ultimo anno, diciamo, l'esigenza è di rendere molto più facile i bombardamenti, e quindi di fare, una cosa bruttissima, diciamo, da dire, fare pressione sui gruppi armati palestinesi attraverso anche bombardamenti sulla popolazione civile. E ovviamente, diciamo, è stata parametrata questo sistema abbassando tantissimo i livelli di verifica, per cui il controllo umano, anche se c'è, è molto limitato, perché, diciamo, il militare che si ritrova al computer sottopone, diciamo, Apsora, questo sistema di intelligenza artificiale, genera automaticamente gli obiettivi da bombardare, e il controllo umano in realtà è ridotto a un paio di minuti, in cui il militare che sta lì in quel momento dà semplicemente l'ok e verifica se non ha altre informazioni in suo possesso, che normalmente non ha. Diciamo che la possibilità di sterminio e quindi di individuare, diciamo, obiettivi attaccabili è molto aumentata nelle ultime operazioni, appunto. Nei primi circa 30 giorni sono stati prodotti da Apsora tipo circa 15.000 obiettivi, roba che in operazioni molto più lunghe e comunque sanguinose di Israele in passato non erano possibile minimamente raggiungere questi numeri. Vabbè, insomma, diciamo, io magari non mi allungo troppo su questi particolari. In realtà, ovviamente, questa situazione specifica di apartheid ottantennale palestinese è una situazione particolare, ma in realtà in contesti queste tecnologie possono essere utilizzate in qualunque contesto di guerra, soprattutto considerando che la NATO sta investendo tantissimi soldi nel sviluppo e nella progettazione, diciamo, di simulazioni di guerra in ambito urbano. Quindi, diciamo, l'investimento per quanto riguarda, parte, diciamo, basta, insomma, guardare un pochino l'attualità, la guerra che si sta spostando sempre più verso l'Europa adesso, e vari paesi europei che si stanno preparando a reagimentare un pochino la popolazione con vari sistemi, fra opuscoli su come comportarsi in caso di guerra. E diciamo, volevo un pochino, mi fermo qui, volevo giusto stimolare un po' la riflessione sul fatto che nella storia, sempre nella storia, diciamo, dell'uomo, dell'umanità, è stata lo sviluppo tecnologico è passato purtroppo per quello militare, e al contempo, però al contempo con le smart cities, quindi le applicazioni poi della tecnologia in ambito urbano anche in tempo di pace, intendendo per pace la guerra che scatenano quotidianamente ai poveri, a tutti quelli che lavorano e non sono i privilegiati, diciamo, come può anche al contrario, diciamo, questa raccolta di informazioni in tempo di pace sulla popolazione può servire anche alla preparazione, diciamo, di scenari di guerra futuri. Mi fermo un pochino. Vabbè. Ah, grazie, sì, importante, chiaro. Sì, sono d'accordo, c'è stato un aumento enorme nelle uccisioni, no? Con il riconoscimento facciale, eccetera. Comunque questa disattenzione, naturalmente, no? A chi è che si uccide, e anche poi strategicamente organizzata. E questo è stato il ruolo di Israele, praticamente, anche prima di questi ultimi attacchi a quest'ultima guerra alla Palestina, no? Israele ha prodotto tutte le grosse tecnologie, si è trasformato nel paese che si è specializzato nei sistemi di sorveglianza, oltre nei sistemi di repressione, che ha insegnato, ha addestrato le polizie, gli agenti di tutto il mondo, dall'Africa agli Stati Uniti. E, se non sbaglio, sono i drones di Israele che oggi pattugliano il Mediterraneo. Oggi il Mediterraneo, che, no, sorvegliare chi sono le barche degli immigranti, e pare che abbia contribuito anche all'affondamento delle barche, perché quando una volta era la guardia costiera, era più facile per la guardia costiera, se c'era la volontà, andare a soccorso alle barche degli immigrati in pericolo. Quando invece è il drone che manda l'informazione, guardate che ci sono barche, è molto più difficile. Quindi sono drones di Israele che pattugliano il Mediterraneo. No? Israele ha fornito, per esempio, modelli di muri elettrificati, cancelli elettrificati, no? Che ormai si stanno erigendo in varie parti del mondo ai confini. Quindi tutto il livello di polizia, la militarizzazione dei confini, a cominciare dai confini tra gli Stati Uniti e Messico, no? Tutto questo, no? Ma vorrei comunque completamente d'accordo su quello che hai detto, no? Tutta questa tecnologia, però una tecnologia che non cresce su se stessa, cresce su degli specifici obiettivi politici. Vorrei invece portare una cosa che è direttamente collegata a questo. Ho scoperto recentemente, io non lo sapevo, che in Italia ci sono 140 basi NATO. Sì. È stato uno shock enorme. In confronto, la Spagna ne ha 2, l'Inghilterra ne ha 30, è il paese del mondo con più basi NATO. E la Germania ne ha 50 o 60, l'Italia ha 140. Un compagno mi ha detto: ma sai, l'Italia ormai è una portaerei americana, una portaerei, praticamente serve come base militare per gli attacchi al Medio Oriente. Questo mi ha veramente sconvolto, no? Perché 140 basi, mi sto domandando. Credo che altro che Smart City, sì, una alta base NATO, di cui 20 completamente gestite dai comandi americani, di cui l'Italia, il governo italiano non sa nulla. Ma le paghiamo noi. Sempre. E le paghiamo. Esatto, le paghiamo tutte noi. Io, fra l'altro, sono rimasta molto allibita, perché leggendo negli anni, no, i discorsi della sinistra, anche di autonomi, non si è mai parlato di queste cose. Perché si è parlato tanto di lavoro cognitivo, si è parlato di questo, e non si è parlato delle basi NATO in Italia? Mi potete spiegarlo, perché io mi sto domandando come mai. tutta questa letteratura degli anni 90, 2000 e poi, che della sinistra extraparlamentare in Italia non ha affrontato il problema delle basi NATO. Ma guarda, neanche adesso però, neanche adesso. Cioè, il fatto che esistano 140 basi NATO passa sotto silenzio, non è vero che viene tirato fuori. Tant'è vero che chi lavora contro la guerra, un arco variegato, seppure poco importante ormai, ma dei pacifisti, i pacifinti, quelli che chiamiamo i pacitonti e compagnia bella, nessuno che tiri fuori il fatto che noi come coordinamento anni fa avevamo fatto un'iniziativa che si intitolava Danzare sulla polveriera, perché sì, noi danziamo, continuiamo a danzare sulla polveriera. È vero, parliamo, comiso. Ho scoperto anche che l'Italia è piena di armi nucleari, no, da Brescia alla Sicilia. Sì, sì, sì, e partono da qui, le missioni partono dalla Sicilia, tantissime, da Aviano tantissime. Cioè siamo attivi, noi siamo attivi. Qui il discorso di chi è il governo italiano? Sì, sì, ma è difficile. Parlo molto della Meloni, perché per carità la Meloni che disgrazia, però sì, è la Meloni, sì, il governo italiano o è un altro? Certo, comunque sono, quello discorso che facevamo prima, assolutamente intercambiabili, possono scannarsi sul non so, il salario minimo, però poi sulle decisioni vere sono assolutamente intercambiabili. Vorrei fare una domanda? Allora, diciamo che la domanda è sempre un eufemismo, nel senso che uno parte, prende per la tangente e via, però io ho delle domande, a fine dell'intervento ci sono delle domande che ho pensato. Allora, intanto volevo ringraziare chi ha fatto l'iniziativa e volevo anche ricordare il fatto che noi abbiamo iniziato questo percorso insieme come No Green Pass, e quindi volevo sottolineare che cosa ha significato per me essere No Green Pass. E la prima cosa è stata appunto accorgersi di che significa vivere in uno stato fascista, no? Perché tu praticamente ti trovi circondato da persone che ti dicono le leggi sono le leggi per cui vanno obbedite, poi ti trovi circondato dai delatori che sono quelli appunto quegli walkie-talkie che fanno la spia, e quindi da un lato per me No Green Pass ha significato rendermi conto della situazione, arrivando al punto di rendermi conto di vivere dentro una sorta di matrix dove niente è quello che sembra, e questo è il primo passo. Poi purtroppo per me la seconda conseguenza di questo percorso è stata che ho iniziato a litigare con tutti, e quindi ci sono una serie di conseguenze sul mio percorso personale abbastanza discutibili. Però ho delle domande. Allora, la prima questione, ovviamente ho visto che hai fatto delle cose bellissime, hai detto delle cose fantastiche su cui non c'è niente da dire, sono così, quindi bypassiamo perché dobbiamo litigare. E, però, per esempio, hai tirato fuori anche la cosa palestinese, e anche la cosa palestinese in questo momento mi sta dando un sacco di problemi, perché il problema qual è? Che se siamo tra noi che la pensiamo tutti allo stesso modo va tutto bene, il problema è che questo paese di stronzi, che è secondo me il primo motivo per cui siamo circondati di base NATO, come esci, diciamo, dall'ambiente ristretto e dove siamo noi praticamente proprio gli ebrei pronti a difendere lo Stato di Israele, trovi gente pronta a cassarti le iniziative, a darti della stronza, a toglierti l'amicizia perché non ne vogliono sapere assolutamente niente di queste storie, e quindi questo è già un problema, e ti volevo appunto chiedere se su questo problema ci avevi mai riflettuto. E siccome io poi su questi problemi ci rifletto, volevo partire proprio da No Green Pass, perché oggi io credo che uno dei grossi problemi sia legato alle parole, per cui tu leggi green e non c'è assolutamente niente di green, quindi oggi stanno facendo tutta una politica ecologista che tutto è tranne ecologista. Quindi la domanda è se avevi mai riflettuto su questo problema delle parole. E la terza questione, che secondo me, poi ce n'è anche una quarta, la terza questione è che io sto diventando molto critica anche sul pensiero, diciamo, di sinistra, perché secondo me tutto in questa enorme matrix viene strutturato per individui ed impera. Per cui allora, se tu vuoi essere sensibile a queste cose, sei di sinistra, però sappi che tutta una serie di cose le faranno quelli di destra, che siccome non sono di sinistra, allora sono razzisti, sono militaristi, sono fascisti, e quindi questo paese è sempre stato scisso. Invece ti faccio la domanda provocatoria per dirti: io che mi specchio la mattina e dico io sono padrona della mia vita, no? Io sono padrona del mio lavoro, e che ne so, voglio dare lavoro ad altre persone. Cioè, se il marxismo, il comunismo, comunque una certa tendenza, diciamo, del, che viene dal secolo scorso in questo paese, in realtà ha proprio, nutrendo questo senso di divide et impera, collaborato in maniera diretta alla costruzione della situazione di merda in cui siamo arrivati, per cui se è necessario costruire una critica a questo modo di vedere le cose. E quindi, partendo proprio dal fatto che dobbiamo litigare, la prima critica è questa. La seconda, per esempio, abbiamo parlato di corpi e... Posso fare una cosa di servizio importante? Se c'è una, qualcuno che ha una panda nera, è da spostare fuori. C'è da spostare una panda nera? C'è da spostare una panda nera? Allora, la seconda critica è proprio su questa questione dei corpi, nel senso che io invece ho sempre pensato, diciamo, appunto alla questione della solidarietà, per cui per esempio anche su questa cosa del patriarcato è chiaro che noi viviamo in una società in cui gli uomini vogliono comandare, e sono cresciuti pensando che comunque facendo la guerra alla fine la spunti, no? Perché dici, metti tutto sul regime di forza basato sulla violenza, eccetera. Il problema è che poi anche su questo modo di vedere le cose stanno costruendo un militarismo che da Israele, come diciamo punta di diamante di questo modo di vedere le cose, si diffonde a macchia d'olio, perché appunto siccome siamo circondati da stronzi, tu chiedi, dici, ah, ma secondo tu ti senti circondato dalla guerra? Sei consapevole che noi siamo i primi fautori della guerra, che il tuo vicino di casa è uno che, insomma, che manda le armi, che produce le armi, che si arricchisce, che anche te che stai lì e fai il vago, in realtà stai a far il vago perché lavori per un'azienda che fa questo, non te ne frega niente. Quindi la domanda era se riusciamo a spostare il dibattito da determinate categorie ad altre, perché io credo che il problema, in sintesi, non sia tanto il fatto che ci sono i padroni cattivi, ma il fatto è che noi siamo in primis, noi guardandoci allo specchio siamo colonialisti, siamo persone che non ce ne frega assolutamente un cazzo, e che quindi con il nostro menefreghismo rispetto al pianeta, rispetto alle altre persone che vivono su questo pianeta, eccetera, cambiando prospettiva e quindi vedendoci noi in prima persona come padroni, come colonialisti, nel bene e nel male riusciamo a cambiare le cose. E la terza cosa, siccome la mia lettura della società è che stiamo passando da un sistema oligarchico, per cui effettivamente alla fine di tutti i ragionamenti quattro stronzi di padroni che comandano le multinazionali, che comandano i governi, che comandano gli stati, esistono e che sono il vero problema, è che stiamo passando da questa, coadiuvati dalla tecnologia, a un regime nazista con tutti i problemi che comporta il passaggio da un regime oligarchico a un regime nazista. Allora, no, non credo di poter rispondere a queste cose. No, no, io non sono d'accordo, perché no, credo che dopo la mia analisi sia servente, e vorrei dire, questo non è questione di quello che hai detto all'inizio, qui la lotta, la resistenza alla guerra che gli Stati Uniti e l'Europa stanno facendo alla Palestina ha visto un'enorme presenza della comunità ebraica, delle grosse organizzazioni della sinistra ebraica, Jewish for Peace, Not in My Name, eccetera, sono stati in prima linea. Ironicamente sono stati arrestati e accusati di essere sionisti, di essere antisemiti. E c'è stato addirittura lo scandalo, non si può dire come si definisce, di rabbini, gente la cui famiglia è morta nei campi di concentramento, che sono stati accusati di antisemitismo per aver protestato contro il genocidio. Quindi non è una questione di ebrei verso non ebrei. Questo è molto importante perché si sta usando questa scusa per demonizzare la resistenza e la protesta. Punto primo. Secondo luogo, non sono d'accordo con questa idea, siamo tutti colonialisti, siamo tutti cose. No, no, ci sono dei rapporti sociali, ci sono dei rapporti di forza molto molto diversi. Quindi è un discorso secondo me diverso. E che altro c'era? E che su cui? No, appunto, io no, in genere io in questo discorso siamo circondati da stronzi. No, io sto cercando di capire anche perché la gente fa certe scelte e capire quali sono i processi materiali, i processi storici, i processi politici. No, non possiamo sparare colpi a destra e a sinistra, invece comprendere qual è la situazione reale e cercare di cambiare le cose. La storia della sinistra, certo, la sinistra è un campo vasto, un campo molto vasto, e io credo che il Partito Comunista in Italia ha fatto moltissimi errori ed è morto poi in modo indecente. E questo non vuol dire che tante delle rivendicazioni che ha portato avanti non fossero importanti. Basta. Io volevo spostare un attimo la questione sul che fare, cioè cosa fare adesso, perché questo tipo di sistema ha messo in atto un meccanismo, vale a dire quello della partecipazione e della compartecipazione. Ed è un meccanismo pericolosissimo. Io l'ho già trovato, per esempio, tanti anni fa quando ho letto l'Urban Operation 2020, perché spingeva a far sì che la popolazione fosse partecipe dei progetti e dell'operare di chi detiene il potere. Ed era un obiettivo a lungo termine che mi pare che stia mettendo in atto sempre di più. Cioè tutte le iniziative e tutte le azioni, tutti i progetti che vengono presentati dal capitalismo adesso vengono presentati come buoni, come progetti per il bene comune, come progetti per la convivenza civile. Chi non capisce queste cose chiaramente è uno fuori dalla società e fuori di testa. E quindi anche sia nella Smart City in concreto, perché si rivolge a specifiche parti di territorio, ma anche in generale sul modo di vedere la società, c'è la tendenza a far sì che la gente partecipi, decida insieme, tutte cose che non sono vere chiaramente, ma la modalità è questa. Allora, ti volevo fare due domande molto precise. Una che riguarda il pericolo che tutte l'associazionismo di sinistra, ma anche di compagni proprio, il pericolo che si presti a questo tipo di gioco, perché nell'illusione di incidere nel contesto dei quartieri, nel contesto urbano, nel contesto di progettazione, eccetera, vada a partecipare e a pensare di intervenire nelle decisioni del potere. E come si può ovviare a questo pericolo? Ma a me sembra quello che dicevo prima, no? Che c'è un parallelo, una relazione tra il tipo di lotto dovrebbe esserci nell'area urbana nei confronti, no, alle lotte che si stanno facendo molto forti, molto intense, molto sanguinose, che si stanno facendo ora in area rurale in tutto il mondo, no? E cioè, per esempio, la lotta per la casa, cioè, no, la lotta per no, accesso servizi sociali gratuiti, scuola, medicina, tutte queste cose, no? Lì le aree di compromesso non sono tante, no? Le aree di partecipazione, perché quello che stiamo assistendo è proprio, almeno io parlo soprattutto poi adesso qui perché però mi sembra che anche in Italia l'investimento nella riproduzione sociale non sia in fase molto molto riduttiva, no? Che si stanno anche rispetto alle cure mediche, eccetera. Quindi io credo che il discorso non è l'associazionismo, no? L'obiettivo non è partecipare in associazione, l'obiettivo è avere programmi, no? Che puntino a un recupero di risorse, un recupero di controllo su territori, no? Su possibilità di vita, no? Contro forme di esclusione. Io credo che ci sia tutto un arco vasto di lotte, di terreno di resistenza, di terreno di costruzione, no? Che non può essere manipolato, non può essere strumentalizzato, perché va nella direzione contraria. Quindi il discorso è vedere se i programmi che si portano avanti in quale direzione vanno. Se vanno nella direzione di creare forme più autonome di riproduzione, se vanno nella direzione di recuperare forme di ricchezza, per esempio limite, no? All'aumento degli affitti, per esempio fine degli sfratti, per esempio tutto il discorso della casa, no? E io credo che questo sia lo spartiacque. Ci sono degli spartiacque che decidono da che parte stare, perché decidono se si sta recuperando terreno, risorse, ricchezza, o se si sta in effetti, no, scivolando dentro un terreno che, no, legittima le nuove forme di espropriazione, maybe più dolci, più soft, no? Ecco, questo poi si deve entrare nel concreto, ma ci sono delle aree molto specifiche: la casa, la salute, il lavoro, la scuola, no? Tutte queste hanno delle basi molto semplici, no? Per esempio, in Italia c'è un esterminio. Quando io dico che la Palestina è il mondo, credo che ci siano 15.000 morti sul lavoro. Io quando vengo in Italia ogni giorno c'è un morto sul lavoro, o di più. Ormai è diventato, la morte sul lavoro è una cosa quotidiana, le morti più atroci. Ecco, perché non c'è una rivolta sulle morti del lavoro? Perché non c'è una rivolta, per esempio, su questo, un'organizzazione sulle morti sul lavoro, no? Quindi io credo che i terreni sono meno scivolosi di quello che può sembrare. Perché, per esempio, porre fine a questo scandalo, no? Quindi questo è il terreno del lavoro, il terreno della casa. Perché io vedo in casa, io in Italia vedo gente a migranti, soprattutto gente senza tetto, sotto, a Parma, anche sotto i ponti, c'è gente che dorme, no? Ci sono occupazioni, ci sono dei compagni molto bravi che fanno occupazioni, no? E, però è tutta una lotta continua, è un aumento degli affitti vertiginoso. Quindi questo è un terreno di lotta, lotta contro gli sfratti. Negli Stati Uniti negli anni 30, quando c'era uno stato, tutta la gente, il vicinato, no? Si accumulava, si aggregava di fronte alla casa ed impedivano lo sfratto. Quindi ricostruire questa solidarietà, no? Io spero di rispondere in questo modo. Sì, penso che la tu stia rispondendo. Sì. Sì, sì. Posso fare una chiosa, poi però se ci sono... La salute, solo un'ultima cosa, la questione della salute, degli ospedali, lì ci sono cose molto specifiche. Io ho una buona esperienza degli ospedali in Italia, perché ho passato moltissime notti, negli anni in cui mia madre era ammalata e stava morendo, e ho passato molte notti in ospedale, seduta su una sedia, in stanze con magari 30 donne, e con un'infermiera che perché di notte non c'era praticamente, la poveraccia non aveva tempo di andare da una stanza all'altra. E questo è uno scandalo. Questo è qui della lotta sull'ospedale, no? La gente credo che abbia paura di andare all'ospedale. Però rispetto a questi campi che tu hai individuato e che penso che siano anche tradizionali, diciamo, come terreni di resistenza, no? Dentro alle città, rispetto alle espropriazioni, all'enclosure, a tutti i meccanismi di accumulazione ogni volta delle fasi del capitale, ok, il terreno è facilmente individuabile, la modalità di lotta, quanto è integrabile o non integrabile da parte del capitale, è più scivoloso. Salute, grossi investimenti nella telemedicina, su questo c'è una buona convergenza, per esempio tra i movimenti si rifiuta la telemedicina perché è chiaro che è un servizio assolutamente inefficace. Già quando si arriva al fascicolo sanitario elettronico, già le posizioni cambiano. Perché c'è qualcuno, cioè si può, diciamo, si può anche essere disposti a diciamo appunto sostenere la digitalizzazione dei dati sanitari in funzione di un miglior servizio. Questa è la prima. No, anche quando prima si diceva che uno strumento grosso di consenso, diciamo di consenso camuffato, estorto, eccetera, comunque la comodità che viene offerta da alcune applicazioni tecnologiche, ecco, su il terreno, per esempio, della rivendicazione del diritto sociale alla salute, quando tu hai per me lo spartiacco è quello che tu hai detto prima, cioè se sono delle lotte che rendono più autonomo quella forma di riappropriazione o meno autonoma, però non è sempre facilissimo, diciamo, trovare convergenze sui singoli strumenti e sui singoli terreni. Ovviamente. In questo senso, e questo vale un po' per tutto, no? Abbiamo fatto l'esempio della salute, ma vale in tutti i campi. Nella scuola abbiamo il registro digitale, per cui i genitori possono accedere in diretta, diciamo, a quello che avviene a scuola, quindi il ragazzo ormai non può neanche più fare sega a scuola, perché cioè non può marinare la scuola perché lo verranno a sapere subito. E c'è qualcuno che è apertamente contrario, perché ci riconosce, diciamo, riconosce al fondo la trasformazione, il gesto etico che questo comporta. Ma anche un'altra questione: quante persone in Italia hanno direttamente accesso a un computer in casa? Tutti? Quali sono le fasce che siete fuori, per esempio? Anche. No, c'è un divario digitale e infatti, come lo chiamano loro, e ci sono anche degli investimenti. Adesso ho visto che nel piano della Smart City di Roma è creato, 1 milione di euro sono andati in queste figure dei facilitatori digitali che insegnano alle persone come usare i dispositivi. Fa ridere il fatto che poi quei dispositivi aumentano la pressione, diciamo, fiscale e sanzionatoria a carico degli individui, costano un sacco di soldi, quindi anche una volta che tu hai imparato ad utilizzarli non si capisce bene come questo dovrebbe poi, diciamo, permetterti di rimanere integrato nella Smart City. Però volevo sentire se c'erano altre domande al giro. No, più che domande posso... Non so quanto possono essere domande, più che altro in merito alle considerazioni che ho sentito prima, un po' da tutti. Vorrei puntualizzare un fatto. Che comunque sia, nel 2020, quella che è stata citata, insomma, come pandemia da Covid, penso che abbia rappresentato una cesura epocale. Quantomeno dalla chiusura del 45 in poi, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, anche perché i processi storici procedono, insomma, con eventi di questo genere. È stato citato giustamente prima la questione del mercato del lavoro, no? degli incidenti sul posto di lavoro, delle morti sul posto di lavoro. Come non considerare epocale quello che è avvenuto qui in Italia nel 1980, con i 45 giorni di occupazione della Fiat e con la conseguente e inaspettata per molti, io la ricordo insomma abbastanza vagamente, pur avendo 16 anni all'epoca, inaspettata marcia di 40.000 cosiddetti capi, quando poi erano comunque sia anche una buona percentuale di operai stessi, di gente comune di Torino, con la responsabilità del PC, perché quando si parla di fine poco gloriosa del Partito Comunista Italiano bisogna fare riferimento anche a quello che l'ha prodotta questa fine poco gloriosa, perché i fatti di Torino sono stati sicuramente di una gravità enorme, se non sul momento sicuramente quello che hanno prodotto poi nel corso degli anni, perché già nel 1987 abbiamo visto i risultati di quei fatti dell'80, cioè la strage quella avvenuta a Ravenna con i 13 morti carbonizzati della McNavy, che è stato semplicemente il primo assaggio di quello che oggi vediamo continuamente e quotidianamente avvenire. Questo perché? Perché comunque sia, torno a ripetere, il 2020 ha rappresentato a suo modo un salto in avanti da parte del chiamiamolo insomma delle organizzazioni patronali, delle organizzazioni governanti, quando si parla comunque sia di dover utilizzare metodi differenti rispetto alle precedenti fasi storiche, si parla semplicemente comunque sia di cambiare anche, no, una modalità di gestione del potere, perché si deve passare comunque sia dai diritti, cosa sancita a livello insomma principalmente costituzionale nel 47, all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, si passa dai diritti alle concessioni, perché tutto il periodo quello che è avvenuto dal 2020 al 2022 è stato semplicemente l'esperimento, no, in campo pratico di passare alle concessioni, ma è lo stesso paradigma che funziona sul posto di lavoro poi, perché sul posto di lavoro c'è i contratti comunque sia sono lettera morta nel momento in cui gli operai, gli impiegati o comunque sia le masse lavoratrici non hanno capacità di saperle gestire secondo le loro punti, secondo le loro necessità oggettive. Dico questo perché dovrei allargarmi anche a tante cose. A me ha fatto insomma un pochino sorridere anche il fatto di sorprendersi delle basi NATO qui sul territorio italiano, non perché sia una scoperta dell'acqua calda, ma ricordiamoci che l'Italia comunque sia, sempre ritornando al 45, è stato l'unico paese in Europa completamente liberato da forze straniere, perché l'esperienza partigiana, per dolorosa, eroica e quant'altro possa essere stata, contava comunque sia su una forza militare di 200.000 unità in tutta la penisola, e niente. E queste 200.000 unità erano concentrate esclusivamente in Piemonte, dove è stato fortissimo l'esperienza delle repubbliche partigiane nelle varie valli, in parte in Lombardia, in qualche centro urbano, e una parte tra la Liguria e l'Emilia Romagna. Fine, basta. Il resto d'Italia ha atteso, tranne quelle esperienze soggettive che sono partite dalle proprie regioni e si sono andate ad aggregare. Quindi sorpresa fino a un certo punto delle basi militari della NATO. Se poi ci mettiamo il fatto che oltre a tutto questo, sempre all'indomani del 45, l'Italia non ha fatto i conti, intendo Italia come la popolazione nella sua contesta, non ha fatto i conti con l'esperienza fascista, perché abbiate pazienza, cioè chiunque sia cresciuto dentro l'ambito negli anni 60-70 dentro il Partito Comunista Italiano, quando, come è successo a me, è cresciuto dentro una situazione nella quale non si parlava assolutamente di guerra civile, si parlava semplicemente di guerra di liberazione, altrimenti erano schiaffoni. E questa è una contraddizione, perché significa che due anni durissimi di patimenti, specialmente per le popolazioni del nord Italia, dove ogni mattina ci si alzava e si trovavano partigiani e popolazioni civile impiccati ai pali, due anni poi paradossalmente sono serviti a salvare la coscienza a tutto un popolo che fino a prima dell'inizio della guerra riempiva le piazze. Quindi è un retaggio questo con le quali l'Italia non ha fatto i conti a suo tempo, ci ha fatto faticosamente i conti negli anni 50 e 60 con le varie esperienze di lotta, tra le quali l'esperienza di lotta femminista, l'esperienza di lotta armata, l'esperienza di tutto il resto. Oggi che è capitato nel 2020-22 un fatto epocale come quello è stato, no, messo sotto il tappeto, perché qui in Italia non c'è stato nulla, qui a Roma non c'è stato niente, tranne una piccola esperienza di diversi compagni, minimale, no? Ma nel resto d'Italia nulla. Possiamo prendere come esperienza di massa i sabati che si sono succeduti nella città di Milano, dove in 30-40.000 dalle 11 di mattina fino alle 9 di sera vagavano per la città, giustamente con cortei non organizzati, mettendo in discussione la politica di emergenza imposta. Ma se non si fa i conti, se non vengono fatti i conti da parte di movimenti antagonisti con questi due anni passati, chi più chi meno, ad osservare comunque sia anche a denti stretti le imposizioni governative, ma dove si vuole andare? È stata un'occasione quella per mettere in discussione alla radice le imposizioni governative, lo Stato, le forme autoritarie, e non lo si è fatto. Se io devo pensare che domani scoppia la guerra, ma a me mi viene da pensare, perché con le modalità oggi in campo, dal punto di vista apposta di pressione psicologica, come l'abbiamo visto nei due anni di pandemia, ho serie perplessità che ci sia la capacità poi di un vasto movimento, tra virgolette, metaforicamente, di prendere e di salire in montagna. Ho serie perplessità qui in Italia, dopodiché staremo a vedere. Comunque sia, chiudo ringraziando gli interventi di poi Silvia Federici e di tutti gli altri, perché comunque sia sono sempre occasioni di confronto e di dibattito importanti dal mio punto di vista. Spero di non essermi dilungato troppo, i temi erano anche più da approfondire, ho provato a sintetizzarli magari mancando di lucidità. Grazie comunque. No, guarda, non hai mancato, caro compagno, non hai mancato di lucidità per niente, anzi un intervento molto importante. Io vengo da Parma, città delle barricate, quindi so bene la storia dei partigiani. Non apprezzo quello che hai detto, tuttavia non credo che debba far sorridere la storia delle 140 basi. Io mi sono domandata, io sono 50 anni che non vivo in Italia, mi sono domandata, ho sempre saputo che c'erano basi americane, ma 140, mi sono, praticamente c'è un comando militare non solo in una regione, in ogni regione, ma multipli in ogni regione. Questo deve far pensare a dei livelli di militarizzazione dell'Italia. Io veramente, forse sono ingenua, ma mi ha fatto molto molto impressione scoprire questa cosa. Però sono d'accordo su questa panoramica generale. I problemi vengono da lungo. I problemi che incontriamo oggi hanno una storia. E credo che questa storia sia veramente importante in questo momento, che è un momento di svolta. Io sento molto che è un momento di svolta. Tu parli del Covid, io vedo la Palestina. Si stanno creando, c'è una nuova legge, si stanno creando delle nuove norme. Stanno emergendo alla superficie cose che sono sempre state sotterranee, ma che oggi invece il capitalismo, la borghesia, la classe rivendicano come il loro diritto. Quindi si sta aprendo una fase nuova sulla quale dobbiamo riflettere, e riflettere dal punto di vista di una lunga storia, non solo su quello che sta succedendo nel momento, ma di questa lunga storia del dopoguerra. Cos'è stata questa storia del dopoguerra? No, io sono appunto, è un discorso lungo questo, no? Però è un discorso che deve essere fatto. È un discorso che deve essere fatto. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Purtroppo io alle 5 devo chiudere. Fra 15 minuti purtroppo devo chiudere. Sì, sì, diciamo che ti abbiamo tenuta qua anche tantissimo. Grazie. Comunque, qualcun altro veramente vuole intervenire prima che Silvia debba chiudere? Perché, per esempio, io ho una idea. Sì, sì, c'è. C'è? Silvia? Si chiama Silvia anche lei. No. Tieni. Ciao. Devo trovare il posto. Ti prego. No, non te andare. Allora, io credo che sia essenziale, non mi dilungo su tutto quello che abbiamo detto perché ovviamente mi trova, diciamo, in linea d'analisi. Credo che sia essenziale capire quale sia il collegamento di quello che noi stiamo sperimentando sia nel fronte interno che nel fronte esterno, che sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia, se non che sul fronte esterno, per esempio in Palestina, c'è lo sterminio di una popolazione, qui c'è un altro tipo di problematica, un altro tipo di manifestazione del problema, d'altronde noi siamo la parte che consuma, no? Siamo la parte che porta acqua a questo mulino, quindi abbiamo un'altra funzione. Comunque, detto questo, io credo che sia importantissimo capire, per esempio, la gestione del territorio, perché in questa, se è un momento di svolta, per esempio il Covid lo è proprio anche nella gestione del territorio urbano e non urbano, per esempio le famose zone, per esempio rosse e quant'altro, no? In cui è la prima grande sperimentazione sul territorio globale di una effettivamente gestione del condizionamento degli spostamenti e quindi di fasce di popolazione. Oltretutto cambia contesto, cambia proprio il territorio urbano, non ci sono più panchine, non ci sono più piazze, non c'è modo di fare socialità se non in posti chiusi oppure già già definiti come tali. Il problema della smart city, ma più che della smart city, è proprio della città, per esempio, dei 15 minuti cosiddetta, è proprio il fatto di pensare che ciò di cui ognuno di noi avrà bisogno è già stabilito, è già definito e comunque quindi tutto quello che noi andremo a fare sarà sicuramente per noi soddisfacente e comodo e tranquillo e rilassante oppure entusiasmante, ma sicuramente tutto quello che faremo non svilupperà nessuna forma di coscienza critica. Lo spazio territoriale, quindi la gestione dello spazio territoriale, coincide con quello che è una forma di forte condizionamento poi della nostra capacità di reazione, ok? Perché stiamo parlando di questo, quindi durante il Covid si è sperimentato sia una forma appunto di gestione del territorio, sia la forma della piattaforma, quindi di auto, cioè diciamo di selezione delle masse, ok? Chi può entrare, chi non può entrare, qui sì, qui no, sui mezzi sì, sui mezzi no. L'abbiamo un po' tutti accettato purtroppo e questa cosa significa che stiamo messi molto male. Però ora altrettanto in città, per esempio almeno in Italia, in varie zone territoriali si sperimentano varie forme di studio dello spostamento delle masse. A Roma si sta sintetizzando tutto nella cosiddetta ZTL. Allora io mi domando cosa possiamo fare per riprenderci quello che per loro è quello che non deve essere mai, cioè il fatto di essere imprevedibili, il fatto di essere diciamo il fatto di non essere condizionabili. Io penso che dobbiamo partire proprio dalla gestione dello spazio urbano. La domanda è cosa da lì sta succedendo, cioè se questa cosa la noti anche tu e come pensi si possa reagire all'essere la più grande sperimentazione di gestione delle masse sul territorio, che poi in tempo di guerra risulta sicuramente molto utile. Se io credo che mi rendo conto delle grosse difficoltà di Roma, poi città turistica, quindi città dove ogni pietra viene venduta ormai a un prezzo molto caro, quindi mi rendo conto questo, no? E forse vedere, io non vivo a Roma, quindi capire dove sono gli spazi da cui si può cominciare, no? I territori proletari, territori dove ancora, no, il turismo non è arrivato, la commercializzazione non è ancora completa. Ma è chiaro che questa, you know, il discorso del consumo, il discorso degli affitti, io credo che ormai in Italia purtroppo ci sono città che si stanno svuotando di abitanti perché tutto è un B&B, no? Mi hanno detto, per esempio, ormai a Venezia vivono 15.000 persone, il resto sono B&B. Venezia ormai è una città che è spopolata dei suoi abitanti, no? Quindi queste sono grosse, grosse tragedie. Io credo che forse cominciare a vedere quali sono gli spazi da cui si può ricominciare a costruire delle collettività, no? È chiaro appunto che a Roma sono enormi difficoltà. Guardando a New York, io vivo qua a New York da quasi 40 anni, ho visto dei cambiamenti immensi, no? Intere aree dove una volta, no, la gente viveva nelle strade, letteralmente, oggi sono svuotate, oggi, no, praticamente sono abitate da persone che sono arrivate negli ultimi 6 mesi. E tutto questo per la struttura degli affitti, tutto questo per le grosse compagnie immobiliari si stanno appropriando. Allora, è vero, la situazione è molto difficile e tuttavia io credo che guardando, soprattutto a livello europeo, guardando le lotte che stanno venendo in Europa, no, si può prendere molta ispirazione. Io sto pensando, per esempio, alle grosse lotte che stanno andando avanti adesso in Spagna. Questa grossa organizzazione che è il PA, no? Che è questa organizzazione contro gli sfratti, che da anni e anni, e infatti sta crescendo enormemente, no? E stanno portando, avendo un impatto a livello di quartiere. Noi l'altro giorno ho partecipato in una grossa conferenza che hanno fatto. Penso per esempio ai Paesi Baschi, dove in città come Pamplona, alla sera le strade sono piene di ragazzi e ragazze seduti per la strada, occupano la strada, dove ci sono varie aree di orti, non solo orti urbani, ma proprio luoghi organizzati dalla comunità. Io credo che forse guardando a livello europeo, e pensando quali sono gli spazi che ci sono in Italia da cui ricominciare. Adesso è molto difficile, tra 5 minuti devo staccare, no? E poi io sono a New York, come siete a Roma. Però questo è un discorso, è chiaro che la situazione è molto difficile, questo non c'è dubbio. E tuttavia, come sempre si è dimostrato, no? Anche nei momenti più difficili, no? Si deve scoprire le forme di resistenza. Io credo che si deve partire dalle persone che non hanno niente da perdere. No? In Italia oggi chi lotta sono i migranti, sono i Roma, sono gente che, no, che o lotta o viene sommersa. E quindi capire perché ancora ci sono degli spazi che permettono alla gente di assoggettarsi. Grazie Silvia, grazie a tutti. Giù le mani dalla nostra vita. Giù le mani dalla nostra vita. nostra vita. Sì, giù le mani della nostra vita. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ok. Wow.